si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno, stiamo insieme fino alle 10 con Si può fare in diretta, un'occhiata ai giornali di oggi, poi le buone notizie, gli approfondimenti, apriremo il numero verde, sentiremo i vostri interventi più avanti, i nostri contatti subito se volete interagire con noi in tempo reale, la pagina Facebook è Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è @sipoffare24, il mio @alemaurizi. Parleremo come primo approfondimento più avanti, dopo aver dato un'occhiata ai giornali di oggi, entreremo un po' anche noi nel merito della questione lavoro, ma occupandoci di quella terra di mezzo che sono i freelance, quella via di mezzo tra il lavoro dipendente e il lavoro imprenditoriale, quasi 3 milioni di partite IVA che lavorano in Italia, praticamente dimenticate dal governo, anzi su cui c'erano stati aumenti dei contributi e insomma peggiorazioni di vario genere. Avevamo accolto il grido di dolore dei freelance praticamente dimenticati su tutto e per tutto, sono quelli che già adesso stanno in sostanza pagando le pensioni con i loro contributi, ma di prestazioni assistenziali dalla maternità alla malattia ne hanno pochissime. Bene, c'è stata una retromarcia del governo su questo, ma in pareggio si tratta, in sostanza si tratta di un pareggio, vedremo quali sono ancora le richieste e le speranze dei freelance, questo dopo il giornale radio delle 8. Adesso però, come detto, andiamo sui giornali di oggi, vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E direi che sui giornali di oggi si celebrano due accordi, due situazioni raggiunte, arrivate a un punto di maturazione. Da una parte il Jobs Act con gli ultimi 4 decreti attuativi approvati dal governo e dall'altra l'accordo, diciamo, ponte per quanto riguarda la Grecia all'Eurogruppo. Questi sono un po' i due temi dominanti, ma ci sono ancora poi un po' di code polemiche su quanto accaduto a Roma con i tifosi olandesi e le devastazioni, le polemiche, soprattutto come sempre accade in Italia del resto, tra in questo caso insomma tra il sindaco di Roma Marino soprattutto e questore e prefetto, in particolare il questore. Cominciamo con il Corriere della Sera che intanto a proposito, diciamo, dell'azione del governo titola con questo, diciamo, anteprima esclusiva che riguarda le prossime mosse sulla televisione. Renzi cambia la legge sulle TV. Vedremo di che si tratta. Intanto però poi parte il Jobs Act, scrive sempre il Corriere, restano i licenziamenti collettivi, misure per le liberalizzazioni. Il consiglio d'amministrazione della TV di Stato scade in aprile, l'obiettivo di Renzi è dichiarato sottrarre la RAI ai partiti. Intanto parte il Jobs Act, sì ai contratti a tutele crescenti, restano i licenziamenti collettivi, scattano nuove misure per le liberalizzazioni, interventi per notai e farmacie, vedremo tutto con calma. Per quanto riguarda invece la Grecia, un'intesa sugli aiuti, altri 4 mesi ad Atene. Gli aiuti che vengono prorogati, Atene aveva chiesto 6 mesi, sono stati concessi 4 mesi, sono però vincolati alle riforme che la Grecia dovrà realizzare. Una prima parte dovrà essere presentata già lunedì prossimo, in base all'accordo appunto firmato ieri. Su questo si gioca poi la sostanza, cioè sulla lista di queste riforme che la Grecia non vuol fare e che invece l'Europa e le istituzioni finanziarie internazionali chiedono di fare. Infatti il ministro Varoufakis, il protagonista ormai quasi superato sul classato Tsipras a livello di immagine, anche lui scravattato in giro se ne va, dice è un primo passo nella direzione giusta di un lungo viaggio. Poi la fotonotizia con i danni alla barcaccia di Roma, di Piazza di Spagna, danni permanenti, l'Olanda non vuol pagare, 110 lesioni alla barcaccia, danneggiata dai tifosi del Feyenoord, l'Olanda non vuol pagare i danni e sulla gestione dell'ordine pubblico non si placano le polemiche, come dicevamo il questore D'Angelo che replica le accuse di Marino, il sindaco Marino è sempre stato informato di tutto, se si perde, si perde insieme. andiamo, vediamo il titolo intanto del Sole 24 Ore. Jobs Act, niente reintegro per i licenziamenti collettivi, contratti a termine oltre il 20% con le intese aziendali. E poi Grecia, accordo politico all'Eurogruppo sull'estensione del piano per 4 mesi. Varoufakis, direzione giusta, lunedì la lista delle riforme di Atene, quello che abbiamo appena letto. Torniamo a un po' sui contenuti di queste riforme. Cominciamo sempre col Corriere, a proposito diciamo del Jobs Act, il cardine dei nuovi provvedimenti e il nuovo contratto a tutele crescenti che scatterà dal 1 marzo, prevedendo in caso di licenziamento la regola generale sia l'indennizzo economico, che sarà appunto proporzionale crescente in base a quanti anni diciamo di anzianità lavorativa hai. Quindi l'indennizzo economico sostituirà il reintegro, che verrà limitato a pochissimi casi, sostanzialmente ai licenziamenti discriminatori e a quelli disciplinari in caso in cui il reato di cui viene accusato il dipendente non sussista. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, cioè gli indennizzi, anche qua ci sono dei cambiamenti importanti, a meno annunciati. Arriva il DISCOL, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori che hanno almeno 3 mesi di versamento. Questa è una novità assoluta, i collaboratori non avevano assolutamente niente fino ad oggi. Chi invece, avendo una collaborazione, ha 3 mesi di versamenti pagati, avrà una, in caso di perdita di questa collaborazione, avrà un sussidio pari alla metà dei mesi di versamento, comunque non superiore a 6 mesi, cioè se ti va bene per 6 mesi hai comunque una rete di salvataggio. Altra novità la NASPI, l'altro sussidio che riguarderà i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro, pare alla metà dei periodi contributivi degli ultimi 4 anni. In sostanza, anche in questo caso non sarà mai superiore ai 2 anni. Però insomma, in 2 anni la possibilità di ritrovare un lavoro, esiste la possibilità di ricercare un lavoro, poi c'è tutto il tema dei corsi di formazione, eccetera. Si tratta di novità queste, ma la novità più corposa annunciata da Renzi, che ha twittato già in mattinata prima del lungo Consiglio dei Ministri, lungo soprattutto crediamo per la questione, il nodo delle farmacie, su cui adesso torneremo. Il tweet di Renzi è: rottamiamo i co-co-pro. Che succede a questi 200.000 collaboratori a progetto? Che non sarà più possibile essere assunti in questa maniera, non dal 1 marzo, data dalla quale parte il Jobs Act, ma dal 1 gennaio del 2016, c'è cioè un regime di transizione. Cosa succede ai co-co-pro in essere, quelli che esistono già? Anche per questi dal 1 gennaio 2016 sarà possibile convertirlo in contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti. Questo è un aspetto importante per tutti quelli che hanno delle collaborazioni a progetto, in essere. Però ci devono essere una serie di criteri che saranno rispettati, che riguardano il contenuto ripetitivo di questa collaborazione e l'organizzazione dei tempi, ma anche il luogo di lavoro, se lo fai a casa tua o se lo fai nella sede dell'azienda che in questo caso ti dovrebbe assumere. Però per fare tutto questo bisognerà passare dal giudice, quindi non è così semplice la cosa. Il giudice dovrà accertare l'esistenza di questi parametri. Poi restano fuori alcuni settori, e quali sono? I call center e le società sportive. Chissà perché le società sportive, ancora non è spiegato, almeno non qua sul Corriere. Quindi call center e società sportive hanno contratti particolari di settore e quindi sono fuori da questa normativa sui co-co-pro. A proposito di società sportive, andiamo subito su Repubblica, che come un po' tutti i giornali si occupano del crack del Parma, il crack della Serie A, Parma senza soldi e la squadra non va in campo. A proposito di società sportive, scrive Maurizio Crosetti, il clamoroso paradosso del Parma, primo club nella storia a non giocare una partita per mancanza assoluta di denaro, ribadisce che in Italia non esistono regole. Qualunque imprenditore tarocco, in realtà paracottaro da 4 soldi, può sborsare un simbolico euro e portarsi a casa una società di calcio, anche se possiede un capitale di 7.500 euro, ha la sede in una specie di cascina in Slovenia e forse si lancerà, forse, nel business delle stufe a pellet. I presidenti del pallone non si sono accorti che il Parma stava facendo questo questa fine e non hanno mosso un dito. Più tonica, una volta tanto, dice Crosetti, normalmente critico nei confronti del FIGC di Tavecchio, che promette di inasprire le sanzioni contro chi sgarra. Vedremo. Il futuro, conclude Crosetti, per ora assomiglia a Parma Udinese, rinviata a data da destinarsi. Questa incursione calcistica negli argomenti economici ci stava tutta. C'è il traffico, ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo sui giornali di oggi, dove si parla soprattutto del Jobs Act. Abbiamo letto qualche titolo anche relativamente all'accordo raggiunto a Bruxelles, all'Eurogruppo, per quanto riguarda la Grecia, un accordo ponte che comunque è tutto da discutere sui contenuti delle riforme che dovrà fare Atene. A proposito di riforme, ci sono quelle annunciate ieri con i decreti approvati per quanto riguarda il Jobs Act, ma anche le liberalizzazioni dal governo. E appunto sulle liberalizzazioni torniamo sul Sole 24 Ore di oggi. Liberalizzazioni per RC Auto e notai, saltano i farmaci. Allora, partiamo proprio dai farmaci. Alt ai medicinali fascia C nella grande distribuzione, ma in farmacia entrano le società di capitali. Roberto Turno, alla fine la montagna partorì la tigre, evitata in extremis la perdita dell'esclusività della vendita di farmaci di fascia C con ricetta dei medici, a favore anche di parafarmacie e grande distribuzione. Le farmacie private convenzionate col sistema sanitario devono ora però guardarsi da un nemico, scrive Il Sole, ben più insidioso: le società di capitali, che potranno fare shopping e acquistarle senza limite di licenze, che oggi è di 4 al massimo anche per i singoli, purché a dirigerle resti un farmacista. Pur senza aumentare il numero di farmacie, insomma, l'Italia va verso modelli diffusissimi in Europa. Poi, invece, sul tema dei professionisti, in particolare i notai, sui passaggi immobiliari fino a 100.000 euro basta la scrittura privata. Questa è una cosa di cui si parla da secoli in Italia, è stata approvata non per le case ma per altri beni, negozi, garage, capannoni, cantine potranno cambiare di mano con una scrittura privata autenticata. Poi per quanto riguarda le assicurazioni, sconto sulla polizza auto per chi monta in automobile l'etilometro della scatola nera. Al momento del rinnovo o anche quando si fa un'assicurazione nuova si possono accettare queste clausole, contenere così i costi, la scatola nera a bordo, ma anche il meccanismo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è sopra la norma. Cioè, se ti installi sull'auto queste robe qua, scrive Il Sole 24 Ore, avrai sconti sulla RC Auto. Poi sempre sulle liberalizzazioni, altri capitoli, qui siamo su Repubblica. Telefonia, meno complesso e più trasparente il recesso dei contratti con gli operatori telefonici, le pay TV e internet. Oppure in banca, meno difficile chiudere un conto corrente, i costi delle chiamate per l'assistenza ai clienti non potranno superare la tariffa ordinaria chiamata per l'ordinaria chiamata urbana, cose che in alcuni casi, scusate il gioco di parole, sembrano così banali che dovevano già essere così, che si capisce perché ci voleva un decreto di liberalizzazioni per evitare che i costi delle chiamate per l'assistenza bancaria dovessero essere più alti che i normali costi per le chiamate ordinarie. Poste e bollette, anche qui cade il monopolio di Poste Italiane sul recapito di atti giudiziari e multe, ora aperto anche a altri operatori, una riserva di legge che l'Italia manteneva insieme al Portogallo e all'Ungheria. Concorrenza anche nel recapito delle multe da parte delle Poste, sai che gioia. Il commento sul tema delle farmacie, Repubblica scrive: la lobby delle medicine vince ancora una volta, supermercati esclusi. Il testo che prevedeva la vendita dei medicinali di fascia C, quelli con ricetta, nelle parafarmacie e anche nei supermercati, con conseguenti sconti per i cittadini, non è passato. Si parla di un braccio di ferro tra il ministro Guidi, che voleva a tutti i costi farlo, il ministro dello sviluppo, e il ministro Lorenzin della salute, che invece era contraria. qualche commento su queste norme approvate, in particolare sul Jobs Act. Stefano Fassina, diciamo, uno dei leader della minoranza del PD di sinistra, molta propaganda, è una riforma degna della Troica, l'intervista su Repubblica messa a di fronte a quella invece ad Alberto Bombassei, storico industriale italiano, patron della Brembo, convinto che le imprese approfitteranno di questa flessibilità, c'è aria nuova, ora l'occupazione può ripartire. E in effetti ci sono già dei dati per le nuove assunzioni, soprattutto per quanto riguarda, però, più che il Jobs Act, a quello che abbiamo capito per quanto riguarda la decontribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che quindi costa di meno alle aziende, sarà così per i prossimi, credo di aver letto bene, 3 anni, e questo sta spingendo l'occupazione, ed è una cosa positiva naturalmente. Altri titoli, altri giornali, altri punti di vista. Il Giornale per esempio sceglie di non occuparsi di questi argomenti ma parla d'altro. Sinistra maneggiona è il titolo del Giornale, la festa degli evasori. Per l'ex ministro Visco l'evasione è di destra, ma c'è chi accusa alla festa dell'unità soldi in nero. Da Soro a De Benedetti, passando per attori intellettuali in quanti hanno avuto guai col fisco. E qua il destro, diciamo, che si parla di sinistra, al Giornale glielo dà, credo, la vicenda di Gino Paoli. Altra scelta diversa è quella del Fatto Quotidiano, che scrive: tutti i regali della RAI, i quadri a Re Giorgio e i gioielli ai politici, la lista dell'ufficio omaggi di Viale Mazzini, 2,5 milioni di euro spesi in 8 anni, per quindi 500.000 euro l'anno, per 50.000 regali a dirigenti, ministri e altri VIP. Ci sono, è curioso, dipinti, PlayStation, borse e vini di pregio. C'è l'elenco: anelli assieme agli orecchini a forma di farfallina, simbolo della RAI, venivano dati ai dirigenti che li distribuivano. L'argenteria, oggetti molto richiesti, utilizzati per fare regali alle famiglie che i dirigenti volevano ingraziarsi. Tutto legittimo, è tutto previsto da, insomma, c'è una lista appunto che è venuta fuori adesso e che il Fatto Quotidiano pubblica almeno in parte. Orologi, borse, valigie, penne, maglie, vini. Ma anche la PlayStation era un pensiero per i bambini, 2 milioni e mezzo di euro in 8 anni. Libero invece si occupa della vicenda Roma, le ricadute dopo il sacco di Roma, liberate la polizia, inutile accusare gli agenti di non aver impedito le devastazioni degli hooligan, e dai fatti del G8 che quando intervengono le nostre forze dell'ordine finiscono sul banco degli imputati al posto dei violenti. La colpa di quanto è successo è della politica e del sindaco Marino. Magari fossero intervenuti più che contro i manifestanti del G8, contro che pure qualche danno a Genova lo hanno pur fatto, contro queste centinaia di hooligan a Roma, che di danni ne hanno fatti parecchi. Però scrive giustamente Maurizio Belpietro: prima o poi bisognerà decidere, o vogliamo una polizia che non usa i manganelli nel timore di lasciare qualche bozzo, che non carica manifestanti per pericolo di far loro del male, oppure diciamo che la polizia ha la polizia di fare pulizia dei vandali e quindi di usare i manganelli quando ritiene che i contestatori abbiano passato il limite, di caricare se la folla non si disperde, eccetera eccetera. Adesso, prima di lasciarci per la pausa del Giornale Radio, facciamola una buona notizia, ce l'abbiamo, vai! And now, the good news! Una piccola, piccolissima notizia che riguarda la città di Milano, ma notizie del genere ce ne sono sicuramente, noi lo speriamo, anche altrove. Abbonamenti gratuiti destinati ai precari e ai disoccupati. Ebbene sì, è una piccola aiuto a chi non ha lavoro, ma in questo caso ci sono fondi per un migliaio di abbonamenti gratuiti, così ha fatto sapere l'ATM. Bisognerebbe che ci fossero fondi sempre, non per chi arriva prima sul sito dell'ATM entro il 5 di marzo, dal 5 di marzo saranno aperte le prenotazioni. Dovrebbe essere previsto per tutti i disoccupati, se non l'abbonamento gratuito, uno sconto, no? Questo dovrebbe essere, ma questo è a Milano, 1000 abbonamenti gratuiti per i disoccupati e i mezzi pubblici. Noi ci fermiamo, torniamo dopo il Giornale Radio, apriremo anche il numero verde 800 24 00 24. A dopo. fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon sabato. Eccoci qua, vi aspettiamo all'800 24 0024. Cominciate a prenotare il numero verde per intervenire e dire la vostra. Dire la vostra, commentare le storie che vi raccontiamo, ma anche giocare con noi, anche oggi. Oggi, vabbè, domani c'è la notte degli Oscar, quindi tutti appassionati di cinema sono lì che aspettano per fare la notte in bianco, che è la cosa bianco, più bella della notte degli Oscar. Per sapere, c'è anche l'italiana, quella, forse tu lo saprai, lo ricorderai, la, quella dei costumi, no? La sceneggiatura, amico. Ah sì, certo. Buffata l'anno scorso. No, è bravissima, bellezza, insomma, è bravissima. Abbiamo almeno un'italiana che partecipa, poi insomma, tutti i grandi film. Noi oggi però vi chiediamo, se l'Italia fosse un film, che film sarebbe? Vogliamo giocare La Cano Nero, scusami, mi è venuto in mente. Perdonami, perché mi sentivo molto in colpa per non aver detto il nome. Che film sarebbe l'Italia se fosse un film? Che ne so, ieri scherzavamo in redazione, Fuori in 60 secondi è stato il primo titolo che è venuto così in mente. Cioè fuga proprio. Sì, fuga dall'Italia, fuga di cervelli, l'Italia non è un paese per giovani, tutto quel filone lì potrebbe il film, però, Nicolas Cage, bellissimo. 60 film, secondi va bene per chi abita, diciamo, qui al nord, alla frontiera, che esatto, per chi sta in un altro posto gli diamo almeno 60 minuti, un'oretta, una mezz'ora, Fuori in una mezz'ora. Oppure uno che a me piaceva molto, lo dico subito, lo sparo così. Vai. I soliti ignoti. I soliti ignoti. Che è il celeberrimo film di Monicelli. Beh, sui ladruncoli, però se pensiamo a un altro tema, cioè l'Italia, popolo di evasori fiscali. Ah, perfetto, quindi. E dopo la lista Falciani direi i soliti idioti a quel punto. Quindi la chiudiamo, facciamo tutto il cerchio. Beh, a me mi viene un po' a prendere come film, chiedendomi qual è secondo me il film. Nel senso che mi viene da dire il film Patria. Questa settimana sono stato a Roma alla conferenza stampa del film Patria, che è il film che ho girato tra dicembre e gennaio. I nostri ascoltatori lo sanno perché ne abbiamo parlato più volte, che uscirà il 26 febbraio nei cinema a Roma. A Milano sarà il 28 febbraio al Mexico, e è un film con di Felice Farina alla regia, con Francesco Pannofino, Citran e me stesso, che faccio l'autistico ipovedente. Deve essere un bel film, Carlo, non perché, vabbè, sì, insomma, a parte che ci sei tu. A proposito di Patria, sì signori, mi dai un gancio perfetto. C'è finalmente una petizione in rete per dirlo in italiano. Usiamo l'italiano, usate l'italiano. Io ogni tanto lo dico scherzando, più che altro perché io non so l'inglese. No, lo so l'inglese, però non amo l'utilizzo, diciamo, mi sembra, cioè, non inutile, è ridondante, stupido. Quando si può usare l'italiano? Lo sai che l'italiano è la quarta lingua nel mondo? Sì, mi stupisce sempre quando ci diciamo questa cosa, perché non riesco a capire come sia possibile che fra inglese, cinese, spagnolo, indiano lingua. Addirittura nella musica siamo la seconda, la terza, diciamo, dopo l'inglese e lo spagnolo, tutto il Latino America e l'America, e ovviamente la musica anglosassone, c'è la musica italiana. Basta pensare al successo del Volo. Però stiamo parlando di opera lirica, quindi opera lirica. Anche. Comunque, quando si parla di musica si parla anche di quello, e c'è l'italiano di mezzo. Perché dovremmo usare l'inglese al posto dell'italiano quando abbiamo una lingua? Non riesco a capire se lo dici Maria per Testa. Turismo, se lo dici per o per ignoranza. Tu giustamente dici, ma io preferisco l'italiano invece. Dicevi Anna Maria Testa ha fatto questa piccola petizione, si può firmare anche su change.org, c'è anche un hashtag su Twitter che è dillo in italiano. Ci sono già diverse migliaia di persone che hanno firmato. Se volete, salutiamo anche Anna Maria Testa, bravissima. Se volete sapere qualcosa di più, andate e vedete e cercate, insomma è divertente, però è anche giusto secondo me. 800 24 0024, tra poco torniamo a parlare dei freelance, ti ricordi, li avevamo incontrati qualche tempo fa, adesso il governo... Il popolo delle partite IVA. Partite IVA ci ha rimesso le mani, però insomma non sono ancora... Sono sempre invidioso, perché io sono una partita IVA, ma qua mi sembra che si parli di partite IVA per, diciamo, per minorenni, e io non sono ancora minorenne, ho detto così? Beh, mi sembra un buon lapsus, è vero, non sono ancora minorenne. Non ho capito niente, ma non importa, ce lo spiegherai tra poco, adesso andiamo a parlare con... il popolo delle partite IVA, vai. A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni. Tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai in quest'onda, mai in affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, quando resisterai? Noi siamo i giovani, nel mondo del lavoro ci sono gli squali e i freelance sono un po' i pesci piccoli, no, del mondo del lavoro. Ritroviamo Anna Soru, presidente di ACTA, Associazione Consulenti e Terziario Avanzato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ci eravamo sentiti, credo, esattamente un mesetto fa, insomma, in piena crisi, stavo per dire isterica, ma insomma, veramente, dei freelance che voi rappresentate, perché il governo aveva annunciato una serie di norme su cui c'è stato però una marcia indietro, qualcuno dice un pareggio, cioè non, voi che siete già, diciamo, un popolo debole nel mondo del lavoro, non avete fatto passi indietro, anche se ce ne sarebbero da fare molti in avanti. Ricapitoliamo, allora, cosa è successo in queste settimane? Dunque, siamo ritornati al punto di partenza, nel senso che nel 2015 avrebbe dovuto aumentare l'aliquota della gestione separata dal 27,72 al 30,72%, e avrebbe dovuto essere sostituito il vecchio regime dei minimi con uno nuovo che era decisamente più favorevole. Siamo tornati al punto di partenza perché l'aliquota è stata bloccata e perché viene prolungato anche il vecchio regime dei minimi. Voi che già sostanzialmente con una delle poche, quella dei freelance, casse previdenziali non in deficit, con i contributi di oggi state già pagando le pensioni a tutta una serie di altre categorie nel calderone dell'INPS, e rischiavate di andare incontro ad un aumento addirittura di questi contributi, quando sappiamo bene poi che le pensioni dei freelance come saranno? Non esisteranno mai. Scusa, mi sono infilato. Così, diciamo che vale per i freelance, ma vale un po' per tutto il sistema contributivo. La pensione contributiva è una pensione che non è molto vantaggiosa, anzi che è abbastanza svantaggiosa, quindi l'investimento pensionistico di tutti quelli che sono nel sistema contributivo è remunerato poco. In queste condizioni chiedere di aumentare ulteriormente un'aliquota quando questa è già la più alta pagata era inaccettabile, ma era inaccettabile anche perché è troppo alta, cioè non è sostenibile. L'altra volta Anna ci aveva detto, insomma, in sostanza il governo ieri è stato approvato, sono stati approvati gli altri decreti del Jobs Act, si sta occupando un po' di tutto tranne che di noi. Quando poi ha cominciato a occuparsi di noi, lo ha fatto, era meglio se non lo faceva. Adesso c'è stata questa retromarcia, continuate però a sentirvi, come dire, tagliati fuori un po' da queste nuove norme del mercato del lavoro a cui si cerca di dare spinta. C'è una piccolissima novità anche su queste norme, che è la concessione dei congedi parentali ai papà, che era una delle cose che noi chiedevamo, di questo ne siamo comunque soddisfatti, però ci rimane tutto il tema fisco-previdenza. Voi prima parlavate di film, a me viene in mente i tartassati. I tartassati. Beh, intanto la ringraziamo per aver partecipato, esatto, al nostro contest, e si candida anche per vincere i biglietti, sì, giusto? La mostra del Fire a Varese, Wim Wenders, quindi non si sa mai. Anna, resta all'ascolto con noi perché magari vince. I tartassati, beh, nel senso che, vi spiego meglio, nel senso che noi ci ritroviamo comunque anche adesso che sono stati bloccati questi aumenti con un, sì, carico fiscale e contributivo che è analogo a quello dei dipendenti o anche superiore, perché noi non abbiamo goduto del bonus degli 80 euro e però non abbiamo ancora un welfare degno di questo nome, perché ci manca la tutela della malattia, della disoccupazione e così via. Quindi ci sono ancora tante cose da fare. Noi ripetiamo spesso, abbiamo una tassazione da paese scandinavo, ma abbiamo un welfare. Forse dove qualche cosa potrebbe arrivare per i freelance, nel caso in cui siano, diciamo, collaboratori, con com'è che si chiama il nuovo sussidio, il Discol, se ho letto bene. Potrebbe riguardare alcuni freelance, cioè avere un sussidio fino credo a 6 mesi, se hai avuto almeno 3 mesi di contributi come collaboratore. Concesso ad una categoria che verrà eliminata, perché i collaboratori sono in via di eliminazione. E in effetti questa è un po' una contraddizione. Come se la spiega, Anna? Perché in effetti Renzi, la cosa che ha annunciato all'esordio stesso il Consiglio dei Ministri è stato: rottamiamo i CocoPro, collaboratori al progetto, che non ci saranno più dal 1 gennaio 2016. Però questo invece c'è questo sussidio, quindi non spariranno comunque i collaboratori. No, non spariranno del tutto, resteranno per alcune tipologie ben individuate, però tendenzialmente diminuiranno tantissimo, quindi diciamo che non è neanche una gran concessione concedere. Fa anche un po' strano, devo dire, cioè dare una concessione a una categoria che stai per eliminare, non so, diciamo, comunque che vengono dei dubbi. No, dunque dovrebbero essere eliminati i CocoPro in base a una serie di criteri che poi sono con già alcune eccezioni, diciamo, rimarranno in alcune esatto, nei call center, nelle attività sportive, per esempio, società sportive, e eccetera. Anche l'università dovrebbero restare. Quindi va benissimo che Beno ha comunque ampliato le tutele ai collaboratori, non è questa la nostra critica. No, chiaro, c'è chiarissimo. Anche un problema di altre categorie che ne rimangono completamente fuori. Tra l'altro, l'aumento dei nostri contributi era una delle misure che avrebbe finanziato la NASPI, quindi c'era anche la beffa di finanziare una misura di cui non avremmo potuto godere. Ma mi scusi, ma invece le volevo chiedere una cosa. Leggendo l'articolo ho visto che c'è adesso la possibilità per gli under 35 di scegliere o la vecchia la liquida dal 5% oppure la nuova liquida al 15%. Ma cosa significa scegliere? Nel senso che qualcuno potrebbe desiderare di scegliere quella al 15%? Sì, se uno ha pochissime spese potrebbe avere il vantaggio della liquida al 15%, perché con la liquida al 15% ha le spese estimate del 22%, quindi... Se ha più spese, ho capito. Però il problema di questa, adesso avremo due regimi dei minimi, e per chi sta avviando l'attività va benissimo, perché a questo punto ha due opzioni, restano fuori però quelli che hanno avviato da più anni, come si è detto prima, per i minorenni, no? Certo. Il problema è che questa è una misura che in gran parte è una misura di sostegno al reddito, e il problema di reddito non ce l'hanno soltanto quelli che stanno avviando un'attività. Se uno ha 50 anni e sotto i 30.000 euro di fatturato, è evidente che ha un problema di reddito, e così come il bonus degli 80 euro è stato dato a tutti, non soltanto ai giovani, ma a tutti quelli che rientravano in una certa fascia di reddito, ci chiediamo perché anche un regime di vantaggio fiscale per gli autonomi non sia concesso a tutti, indipendentemente dall'età o dal fatto che sia in una fase di avvio. O potrebbe esserci una premialità per i più giovani, e va benissimo, qualunque discriminazione a favore dei più giovani in questo paese può andar bene, però senza dimenticare tutti gli altri. Condivido molto, forse perché sto diventando un anziano e quindi condivido molto la battaglia. Sono tante le questioni che riguardano il freelance. Grazie per ora ad Anna Soru, presidente di ACTA, per essere stata con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Sabato. Insomma, questo è il punto sui freelance. Avete sentito, siamo tornati al punto di partenza, quindi condizioni che erano magre, che restano magre, poche prestazioni assistenziali. Adesso c'è il concetto di paternità, di maternità per i padri. Poche prestazioni assistenziali, a fronte comunque di contributi che i freelance pagano, ed è una situazione intollerabile. Esclusi comunque da tutti i tavoli per quanto riguarda il lavoro, si continua a parlare di lavoro a tempo indeterminato, tempo determinato, ma i freelance, che sono comunque una punta importante nel mondo del lavoro, cioè quelli che poi si sobbarcano sulle loro spalle questa terra di mezzo tra essere imprenditori, che è una cosa per pochi, e essere dipendenti, che è una cosa per tutti, ma oggi purtroppo anche questa è per pochi. Pochi. Verissimo. E poi Anna ci ha dato anche il titolo di un film, I Tartassati, quindi... I Tartassati, direi che partecipa al nostro concorso a pieno titolo. E però va anche detto che è vero che la situazione è così, ma non è peggiorata, nel senso che sembrava essere peggiorata, il governo ha fatto un passo indietro e ha deciso, perlomeno non la peggioriamo. Quindi auguriamo tutti che venga migliorata. Però la buona notizia è che non è... Una mezza buona notizia. Esatto, mezza buona notizia. 800 24 00 24, se siete voi stessi freelance, partite IVA, volete raccontarci la vostra storia, come avete vissuto queste settimane di fibrillazione e l'annuncio adesso di queste nuove norme che vi riguardano, oppure se volete giocare con noi, se l'Italia fosse un film, che film sarebbe? cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, 800 24 00 24, abbiamo fatto il punto con Anna Soru dell'ACTA sul come vanno le cose nel mondo dei freelance. Adesso vogliamo le vostre storie, i vostri commenti e anche la risposta alla nostra domanda: se l'Italia fosse un film, che film sarebbe? Alberto da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego Alberto, su cosa voleva intervenire? Volevo dire che non ci resta che piangere come film. Ah. Non ci resta che piangere. Film stupendo, lo ricordiamo tutti. Autobiografia dell'italiano medio. Ma su qualcosa nello specifico del film, cioè tipo sì, quanti siete un fiorino oppure... No, quanti siete un fiorino. Amanda Sandelli mi sembra proprio la figura che incarna... Maria Elena Boschi quando fa palla uguale. Allora è ancora più interessante raccontato così, perché mi aspettavo più la scena di Ricordati che devi morire. Ci potrebbe stare tutto il titolo. È un compendio. Infatti è un capolavoro. È un compendio. È vero. Maria Elena Boschi, quando l'hanno fatto il film, lei forse non era ancora nata o era piccolina, no. Era piccolina, però in effetti secondo lei il ruolo di Amanda Sandrelli ci sta tutto. Beh, insomma, che dire, Alberto, grazie. Vuole aggiungere mille. Qualcosa per arricchire la candidatura? No, va bene così. 800 24 00 24, il primo film che incassiamo è Non ci resta che piangere. Il primo film che incassiamo è bello, ci sono tutti che di solito si chiedono quanto incassa il film, invece lo incassiamo noi. Direttamente i film. Abbiamo un altro ascoltatore, Claudio da Viterbo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi richiamato. Come stanno andando le cose ultimamente in Italia, io penso che potrei identificare la nostra beniamata patria, la grande abbuffata. La grande abbuffata, Ferreri, giusto? Come? È un film di Ferreri. Con Tognazzi. Sì, con Tognazzi. Con tutti. Diciamo, c'era da magnà per tutti, però questo fotografa secondo lei il presente o il passato dell'Italia? Cioè ancora epoca da grande abbuffata secondo Claudio? Ma il passato, il presente e se va avanti così anche il futuro, cioè se non ci sbrighiamo, se non ci diamo una mossa, mi sa tanto che saremo proprio identificati anche da parte dell'Europa proprio come i gran magnatori dell'Europa. Quindi, sì, tra l'altro il film e populismo. Esatto, il film, se non ricordo male, sono quattro personaggi che per scelta si chiudono in una casa e iniziano la grande abbuffata, diciamo per avere la fine che poi avranno, quindi non particolarmente un buon augurio, diciamo, la grande abbuffata. Non è gente che mangia. La fine è misera, quindi è questo che non dobbiamo arrivare. Certo. Quindi, è un po' l'ultimo assalto alla diligenza. Diciamo, Claudio ce lo dice che sia da monito questo. Da monito. Utilizziamo questa bellissima opera di Ferreri come monito per non arrivare a ciò. Va bene, grazie Claudio, grazie mille. 800 24 00 24, c'ha già due film notevoli, complimenti, devo dire complimenti agli ascoltatori, tutti amarissimi, sarà una mattinata così. Apprezzo anche che scegliano film italiani, devo dire, perché di solito appunto magari giocando sul titolo può scegliere, e in effetti scopriamo di essere molto bravi nell'autobiografia da questo punto di vista, film italiani che parlano dell'Italia. Sì. Male però c'è anche Il nome del popolo italiano, così per dire. Adesso vogliamo invece parlare di immigrazione e integrazione, com'è uno dei, tra l'altro, dei prossimi capitoli che affronterà probabilmente il governo Renzi, lo ha detto, si parlerà di diritti e di ius soli nel prossimo Consiglio dei Ministri. Com'è la vita in Italia dei giovani stranieri nati magari da genitori stranieri in Italia, oppure cresciuti fin da piccoli in Italia, che sono italianissimi, parlano l'italiano, frequentano le nostre scuole, fanno sport in Italia, però senza la cittadinanza ci sono un sacco di problemi. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te, in pace con te. Oh signore dei viaggiatori, ascolta questo figlio immerso nei colori, che crede che la luce sia sempre una sola, che si distende sulle cose e le colora di rosso, di blu, di giallo e di vita, dalle tonalità di varietà infinita. Ascoltami, proteggimi, ed il cammino quando è buio illuminami. Sono qua, in giro per la città, e provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercando di zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo, yeah, yeah. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche se a volte non ci credo. Vuoi andare a casa? A casa dov'è? E quando parliamo di giovani nati in Italia o arrivati in Italia da piccoli, figli di genitori stranieri, di immigrati, parliamo di giovani di seconda generazione. Il tema lo abbiamo annunciato questa settimana. A scrivere una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato Yassin Lafran, che è qua con noi, 29 anni, coordinatore tra l'altro della comunità islamica di Bologna. Buongiorno Yassin. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Spero di avere pronunciato bene, correttamente. No, perfetto, perfetto. Ah, per quel no, c'è agitato. Eravamo qua che lo stavamo provando il nome, dicendo ma adesso lo sbagliamo di sicuro, come facciamo? Quindi siamo molto contenti. Immagino la scena, una volta dovevo lavorare in un posto, chiamo, mi risponde, e mi dico salve, ma sai, io devo iniziare a lavorare. Mi dice, guardi, non sei il responsabile, però se mi lascia il nome la faccio richiamare. Mi chiamo Yassin. Mi fa, no, guardi, se mi lascia un nome in italiano sarebbe meglio. E come faccio? Beh, questo è straordinario, questo aneddoto è straordinario. Già è molto buono. Già cominciamo così. Francesco, scriva quello che vuole, insomma. Mi lasci un nome in italiano, è molto buono. Beh, però potrebbe essere una soluzione radicale, no? Quella di cambiare nome. Io, per esempio, che spesso mi becco del Maurizio, perché di cognome faccio Maurizi, e lo so benissimo che... Figuriamoci come possa essere frainteso un nome straniero. Adesso parleremo insieme di questa lettera che hai scritto a Renzi. Dobbiamo fare una piccola pausa per il traffico. Intanto, tu, sì. Io ho detto 29 anni, da dove vieni, Yassin? Io sono nato a Casablanca, in Marocco, e poi all'età di 11 anni sono arrivato in Italia per il congiungimento familiare, perché mio padre era già qui dall'89. Sì. E sono cresciuto qui, insomma. Sempre a Bologna? Prima a Torino, poi a Bologna. Hai studiato in Italia, ti sei laureato... In lettere e filosofia, con il massimo di voti, e insomma, poi ho voluto insomma fare un'esperienza formativa fuori a Londra, ma non mi è stata data la possibilità. Ed è questa la cosa che mi ha colpito molto, perché pensate, Yassin è in Italia da quasi 20 anni a questo punto, sentite, parla italiano perfettamente, ha studiato, è laureato, vorrebbe andare a fare un corso in Inghilterra, ma siccome non ha la cittadinanza per l'Inghilterra, è un cittadino straniero, non può entrare e non è comunitario, e qui cominciano i problemi. Da qui credo anche poi la motivazione per scrivere a Renzi. Adesso ne parliamo, facciamo il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme, cari ascoltatori, e soprattutto di nuovo insieme a Yassin Lafran, 29enne. Adesso, perché hai detto bene il nome prima, ti stai ringalluzzendo, giustamente. Mi sto ringalluzzendo. Originario del Marocco, venuto qua a ricongiungersi con la sua famiglia quando era molto piccolo, adesso sostanzialmente italiano, ma non per la legge. Hai scritto una lettera a Renzi per dire, chiedere, raccontare che cosa, Yassin? Ma io ho scritto una lettera dove ho cercato un po' di, è vero, parlare di quella che è la mia storia, però volevo dar voce a quei migliaia e migliaia di ragazzi che in giro per l'Italia sentono ormai parte integrante di questo paese, ma non gli viene assolutamente riconosciuto tutto ciò, anzi rischiano di essere discriminati nel loro percorso, diciamo, di formazione, di studi, cioè come lo è stato il caso mio. Quindi noi abbiamo dei ragazzi che sognano di fare i poliziotti o magari di fare un lavoro comunque pubblico, ma si trovano a non poterlo fare finché non vengono riconosciuti, diciamo burocraticamente parlando, come cittadini italiani a tutti gli effetti. Questo sicuramente crea, diciamo, degli stranieri in casa propria, perché di fatto questi ragazzi si sentono italiani, italianissimi, però scoprono di esserlo diciamo, davanti a certe situazioni. Cioè, questo è veramente, insomma, assurdo e paradossale. Nel tuo caso, cosa mancherebbe, cosa manca per poter avere la cittadinanza e quindi poter, diciamo, accedere a tutto quello che tu ci stavi raccontando adesso, da italiano? Sì, da un annetto a questa parte ho fatto la domanda di cittadinanza, ma l'ho fatta per matrimonio, non per residenza, perché sono due tipologie, due percorsi. O lo fai per residenza, vuol dire che devi avere più di 10 anni di residenza, devi avere una fedina penale splendida, pulitissima, cioè devi essere meglio del tuo ex primo ministro, non devi essere stato condannato... E quindi se per assurdo, insomma, hai dato uno schiaffo a un tuo coetaneo autoctono e questo ti ha denunciato, tu rimani fregato a vita perché non potrai mai essere italiano a tutti gli effetti. Questa domanda per residenza purtroppo in media si aspetta 3-4 anni ed è legata molto al reddito. Nel caso mio, che ho scelto di studiare, sono stato penalizzato, perché per l'Italia chi sceglie di studiare, quindi non produce reddito, quindi fa il precario come sei coetanei autoctoni, sicuramente questo è meno cittadino, è meno italiano. Infatti... Sì, questo è un punto in effetti un po' curioso. Allora, un giovane italiano nato in Italia ovviamente non ha il problema della cittadinanza, però esattamente come accade per te, ha delle fonti di sostentamento perché avrai la famiglia che ti aiuta, magari studi lavoricchiando eccetera eccetera, però siccome non sei in grado di produrre il reddito sufficiente per la cittadinanza, sei studente e non puoi essere cittadino italiano. Esatto, questo è un paradosso assurdo, perché tu studiando ovviamente conosci sempre di più questo paese, ti ne senti sempre parte, hai le chiavi della città in mano, conosci la società dove abiti, poi sicuramente conosci il territorio, hai il polso della situazione. Ci sono invece altre persone che questo non lo esercitano assolutamente, sono poco integrate, parlano l'italiano maluccio, però solo perché lavorano, producono reddito, e quindi questi sono più italiani di te. Questo è veramente un paradosso, ma altri paradossi è il fatto che questa legge sulla cittadinanza è una legge ormai anacronistica, vecchissima, del 92, se stiamo parlando di una legge del 92 che non è mai stata più ritoccata, cioè leggi sull'immigrazione, insomma, sono cambiate nel corso dall'85 fino ad oggi, 4-5 volte hanno cambiato la legge sull'immigrazione, ma sulla cittadinanza è rimasta parcheggiata con le quattro frecce nel 92. Ma infatti tu tocchi un punto fondamentale, cioè dicendo che probabilmente questa legge è troppo vecchia perché non valuta i cosiddetti stranieri di seconda generazione come sei te, perché se uno arriva da un paese straniero, sì, allora gli si richiede, diciamo, di lavorare, perché sennò uno dice che cosa sei venuto a fare. Ma se uno è un bambino e viene qua, è giustissimo, cioè la discriminazione del fatto che tu invece scegli di studiare invece che di produrre reddito e che in questo caso vieni discriminato è un po' la stortura della legge, che mi sembra appunto più scritta per i cosiddetti per immigrati e non per gli stranieri di seconda generazione, che in realtà noi dovremmo essere felicissimi che ci siano gli stranieri di seconda generazione, sì, che in realtà sono italiani. Ma ci vedono ancora come lavoro, come dicevano una volta i sociologi americani, ci aspettavamo delle braccia, ci sono arrivate delle persone, perché è vero che i nostri genitori erano spinti dalla disperazione e più delle volte da una speranza di una vita migliore, noi invece che siamo cresciuti qua ci sentiamo assolutamente parte integrante di questo paese, quindi non condividiamo le stesse aspirazioni limitatissime, diciamo, dei nostri genitori, noi invece ci riconosciamo in quelle che sono le disgrazie di questo paese, ma anche quelle che sono le gioie di questo paese, quindi viviamo questo paese a 360 gradi. Tra l'altro a 360 gradi ci sono intanto statistiche come quella della Fondazione Leone Moressa di qualche giorno fa, che dice che il PIL prodotto in Italia dai lavoratori stranieri equivale all'8,8% del totale nazionale, sì, quindi parliamo di una cifra grossa. Ma anche studiare in realtà crea PIL, è questo che bisogna forse capire. Però vorrei toccare anche l'argomento di questa settimana, le parole dell'ex allenatore della Nazionale di Calcio, Arrigo Sacchi, che guardando ai campetti giovanili ha detto ci sono troppi stranieri nelle giovanili del calcio italiano. Io credo che al di là dell'accusa di razzismo a Sacchi ci sia un po' il tema che i giovani stranieri in Italia sono scelti spesso nello sport perché hanno voglia, hanno fame, hanno voglia di fare fatica, di sudare, questo è quello che mi arriva da chi allena, da chi fa sport, più forse a volte dei giovani italiani. È vero vero che a volte il giovane straniero ha addirittura questa grinta, questa marcia in più rispetto al giovane italiano, secondo te? Ma secondo me in parte è vero questo, perché tutti i giovani sono carichi, hanno energia, hanno sicuramente molto da dare. Chi si sente limitato in certi settori o in certi campi ne prova altri, cioè, scusa anche il gioco di parole. Quindi magari molti provano il campo sportivo, molti cercano di esprimersi molto da questo punto di vista, insomma, giocando a sport. Però quello che vorrei dire in merito alla frase di Arrigo Sacchi, che per me non è un razzista, però una persona che non conosce bene ormai la realtà del paese. Cioè, io dico basta andare in giro per le scuole elementari e medie per capire come sarà l'Italia del futuro, perché lì c'è un melting pot, ci sono persone di diverse provenienze ma che parlano tutti la stessa lingua, parlano l'italiano, mangiano cibo italiano, si riconoscono in questo paese. Turbare, diciamo, questi bambini con discorsi geopolitici non è il massimo, cioè farli sì, bisogna capire bene di cosa stiamo parlando, di che esatto. tipo di stranieri perché uno che ha la pelle scura però è nato in Italia da genitori che hanno la cittadinanza esatto. italiana, non si può più parlare di stranieri. E questa è la vera questione, che sono italiani la maggior parte delle volte, quindi dobbiamo salutarci in quel caso, però Yassin sì, anche perché Balotelli sì. che faceva gol era italianissimo, esatto, dopo era straniero negro di... giustissimo, ci siamo capiti bene, anche perché l'hai detta dritta per dritta. In bocca al lupo per tutte le tue cose, Yassin Lafran, grazie per essere stato con noi. Dobbiamo fermarci, c'è il giornale radio naturalmente, 800 24 00 24. Aspettiamo ancora il vostro film. Se l'Italia fosse un film, che film sarebbe? A dopo. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lasciami qua, non c'è niente che non va. Per una volta che potevo stare a letto per davvero, mi suona il cellulare, guardo l'ora 8.00. Metto il piede a terra, sento il gelo, rispondo pattinando dove il gatto ha vomitato il pelo. Già penso al peggio, ma è una call center vista che mi blatera qualcosa su un'offerta, una tariffa. Dice che conviene, ne conviene. Io penso che se questo era il buongiorno, cominciamo super bene. La radio parla ed io non sento cosa dice, e penso a quello che farei. Potessi starmene su un'isola felice, adesso mi rilasserei. Lasciami qua, non c'è niente che non va, dirlo agli altri che poi mi passerà. Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è di J-Ax e Nina Zilli, Uno di quei giorni, che è il cosiddetto si può fare in musica, una canzone segnalataci dall'ascoltatore Giorgio Quarta. Vi ricordiamo che potete segnalarci il vostro si può fare in musica sui nostri account social, quindi si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Fatelo subito se avete una canzone in testa, scriveteci anche il motivo per cui è la canzone che vi dà la carica, vi dà la gioia, l'entusiasmo di di dire che si può fare, esatto. Che è il titolo della nostra trasmissione. Voglio dire una cosa che è una buona notizia, che riguarda un collega, è giusto dirlo ogni tanto. Il nostro Dario Ceccarelli ha vinto un premio, l'autore del Graffio, che tutte le mattine nel giornale radio delle 8 ci strappa un sorriso con una modalità, una vignetta radiofonica, il grafico, lo dico a te che la mattina alle 8 probabilmente mi sto preparando per la trasmissione del sabato e la domenica, esatto, ma gli altri giorni dormo. E allora ha vinto il premio Zanetti del gruppo Lombardo giornalisti sportivi per quei colleghi che hanno saputo unire ed allargare lo sport ad altre voci del giornalismo. Grande Dario, bravo, complimenti. No, io volevo ricordare una cosa stupida, che oggi è il 21 febbraio, quindi mancano esattamente 51 settimane al San Valentino del 2016. Per chi dovesse essere single, di occuparsene adesso, perché sennò uno se ne occupa sempre un po' all'ultimo. Invece mancano 51 settimane per trovare compagno o compagna. Andrea da Verona, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, prego. Il film che ho pensato è Gran Budapest Hotel di Wes Anderson, che anche... Sì? Sì, il motivo è molto semplicemente che mi riconduco all'aspetto dell'Otello, che era magnifico. Ecco. Un hotel decaduto. Esatto, esattamente. Beh, anche questo è un modello, è un film tanto strepitoso. Sì, assolutamente. Credo che correrà anche agli Oscar. Sì, sì, tra i candidati. Nomination. Sì, sì, nomination. Sì, perché è un film del 2014. Film corale che narra appunto le vicende dei personaggi che si intrecciano all'interno di questo grande hotel e che lei vede un po' come l'Italia. Un grande passato e voglio dire, un presente... come vogliamo definirlo? Tira avanti il presente, ma dal futuro molto incerto. Si tira a campare. Un bellissimo film, tra l'altro con l'attualità super degli Oscar che ci sono domani sera, quindi una bella proposta quella di Andrea da Verona, secondo me è carina. Allora lo mettiamo in lista per aggiudicarsi i biglietti per la mostra del Faia Varese Wim Wenders, insieme agli altri che hanno già partecipato. Abbiamo Miranda Buffata, non c'è sta che piangere per ora, poi Ei Tartassà direi anche, diciamo. Gli altri sono titoli che arrivano più immediati come titolo, invece Grand Budapest Hotel bisogna, diciamo, averlo visto per comprendere meglio il link all'Italia. Gianni da Milano, buongiorno. Ciao, io ho pensato all'Armata Brancaleone. L'Armata Brancaleone con siamo Gassman. Sempre sul filone, si capisce già, no? E si sorride del film italiano che in oppure, questo modo diventa un'alternativa. C'era sì. Anche Claudio Fellini. Come? I clown di Fellini, giusto? I clown di Fellini, sì. Però uno me ne deve dire, ne vogliamo uno. Gianni da Milano, uno solo ne deve dire perché allora, si partecipa. L'Armata Brancaleone. Vuole aggiungere qualcosa oltre al titolo che già di per sé è molto esplicativo? No, direi che dice tutto. No? Dice tutto. Chi l'ha visto e ma pensa... ce n'è due tra l'altro, se non sbaglio, perché c'è l'Armata Brancaleone alle crociate forse. No, no, no. Quello. Va bene. Di chi è questo film strepitoso con Gassman, con diversi caratteristiche? Come? Non mi ricordo nemmeno io, sarebbe è di Monicelli bisogna omaggiare giustamente Monicelli. Grazie Gianni, buona giornata. No, bisogna ricordarli i nomi di questi registi che hanno fatto dei film strepitosi che ancora oggi se passano in televisione un'ora davanti al film non te la leva nessuno. Esatto, dei giganti. Infatti va sottolineato anche dai titoli che abbiamo ricevuto come risposte che facevamo dei gran bei film, si può dire. Allora adesso abbiamo un ascoltatore che si chiama credo Vyacheslav da Venezia. Sì, buongiorno, esattamente Vyacheslav, però ecco, per amici scusa. Più corto Slava, sarebbe un diminutivo, no? Ah, per gli sì. Amici come, scusa? Slava. Vyacheslav, Slava, sì. Slava. Sì. Prego, Slava, cosa volevi dirci? Sì, due cose velocissime. Per prima una comica, cioè una storicella comica legata anche al mio nome, perché ho sentito il signor Yassin prima. Che sono andato in un magazzino, come che faccio autista di mezzi pesanti, ho trovato un magazziniere nuovo che alla sua domanda come mi chiama, gli ho detto Vyacheslav Porto Slava, e lui mi fa guarda, ti chiamerò Gianfranco perché non faccio fatica e tu assomigli a mio vicino Gianfranco. Erano tutti ragazzi lì che mi conoscevano vicino, no? Sì. Dico va bene, non c'è problema, tu un po' assomigli a mio gatto, ti chiamerò Richard, quindi ci siamo a posto. Vabbè, mi sembra molto bella la storiella. Intanto credo che tu sia il primo russo che si chiama Gianfranco, che mi sembra molto bello. No, ma comunque hai imparato il mio nome da subito dopo quella battuta lì che l'ha fatto e siamo amici anche adesso. Bene. Deve essere anche difficile da scrivere il tuo nome. No, e sarebbe Vyacheslav come Miroslav, è sempre un nome di origine russa. Ce la possiamo fare, hai ragione. Sì. Basta un po' di abitudine. Una cosa volevo dire, io ho la mia figlia che è nata qua, diciamo, in 2008, sì. A 7 anni. Io sto pensando anche io, diciamo, che lo vedo sempre vivace lì, di fare magari, provare qualche sport, anche ginnastica, artistica. Sì. E qua, diciamo, può venire fuori un problema. Di che tipo? Non è detto che lei arriverà ai livelli massimi, però se c'è questa opportunità che lei si dà da fare, a un momento, sapete che le ginnaste, diciamo, arrivano ai livelli superiori a 13, 14, 15 anni, sì. Quando... Quindi là, prima di diventare maggiorenne certo, non avrà la cittadinanza. Là, praticamente Italia lo può perdere tranquillamente, che mia figlia, arrivando al livello buono... Allora, non avendo perché, la possibilità, Vaceslav, tua figlia avrà cittadinanza italiana al compimento del 18° anno. Sì, esattamente così, ragazzi. E con chi potrebbe gareggiare? Potrebbe gareggiare con la Russia. Con la però Russia, stando perché, in Italia, non è così sì, semplice. Non è così, perché lei già si sente italiana. Parlando con lei, noi in casa proviamo a parlare russo, però lei parla italiano bene. Addirittura meglio Veneto. Di voi, già è ovvio. Sì. E quindi ci sono tutte queste problematiche legate anche allo sport, anche a. Vabbè, noi siamo integrate. Ma è brava tua figlia, come sì. si chiama intanto? Possiamo dirlo? Carolina si chiama, è Carolina. Un'altra cosa vi dirò: mia figlia è nata il 2008, primo gennaio, era nata prima nel Veneto in quell'anno lì. Ah, è la prima nata in Veneto. Ah, quelle che escono sì, fuori sui giornali, sì. la prima nata dell'anno, eccetera, sì. eccetera. Bellissimo. La prima nata dell'anno si chiama Carolina ed è russa. È brava, è brava a fare sì. la ginnastica artistica? Adesso una di migliori nella gruppa, diciamo, nella gruppa, però diciamo, magari si stufa, però sempre può venire quella problema lì. Comunque io magari, nel frattempo, che... magari nel frattempo il governo approva delle norme sì, che riguarderanno tua figlia che ogni anno è piccola tutti. Non vogliamo perderla speriamo. Anche se è più facile per lei forse essere la più brava del gruppo essendo in Italia, perché mi sa che in Russia avrebbe molta più concorrenza, o sbaglio? Sì, è bravo, ha detto proprio tutto, perché Russia è una delle dominatrici in ginnastica. Esatto. Quindi qua può sfondare veramente, se avrà voglia, se avrà fare in bocca al lupo fatica. In bocca al lupo. Grazie a te mille, Carolina, grazie. Ciao. Traffico. Strade in diretta. Buongiorno, resta invariata la situazione sulla 21 Torino-Brescia, dove si è verificato un incidente tra mezzi pesanti tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. A Roma in città difficoltà di circolazione sulla circonvallazione ostiense per un incidente avvenuto all'altezza della via Cristoforo Colombo in direzione del centro. Difficoltà di circolazione per un incidente anche sulla via Prenestina in direzione del raccordo anulare. Un incidente segnalato anche sulla 26 dei trafori, prudenza tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona-Toce. Per quanto riguarda le condizioni meteo, segnaliamo pioggia al nord-ovest e nevischio in Val d'Aosta. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori. Abbiamo Roberto da Milano, ancora un ascoltatore all'800240024. Ciao Roberto. Buona giornata e vi ringrazio di aver chiamato. Vi ascolto sempre con piacere, ho bisogno di una cortesia. Sì, prego. Cosa vuol dire freelance? Che stamattina l'avete detto almeno 3-4 volte. Freelance. Sì, tra l'altro io ho fatto anche l'appello a parlare in italiano, poi è un giustissimo, mi ha colto in castagna sull'inglese. Ha ragione Roberto. Vuol dire lance libere, direi, giusto? Lance libere, penso, più o meno. È quello, no Roberto? Sì, ho capito. Però voglio dire, è diventata una moda, sì. Partendo da Renzi, questo job chart, come nel freddo. Com'è? Scusa Roberto, rifammelo. Job chart, lì. No, dillo come si dice, come si dice? Non lo so, guarda, non lo so. Mi incazzo. Sai perché... che c'è un sacco di colleghi che sono, Roberto, ci sono un sacco di colleghi che sono impazziti letteralmente a pronunciare, sì. perché dicevano job acts, mettevano la S in fondo, invece è jobs act. Esatto, una però volta... va anche detto che ci sono certe parole, e non parlo di jobs act, che sicuramente sarebbe meglio chiamarla riforma del lavoro, è un modo per farcela digerire meglio, chiamarla con un nome che sembra un gruppo di cantanti inglesi, e invece è una riformaccia. Però voi siete simpatici, ma non è che molti lo fanno per far vedere che sono degli intellettuali, che sono tutto loro. È diventata una moda. Siamo in Italia, qualche parola si può dire, però traducetela bene. Io sono d'accordo. Infatti, allora, anche lei, Roberto, o tu, Roberto, firma la petizione, dillo in italiano, che c'è online, perché mi sembra che sei schierato su questo. Io pure l'ho firmata, perché credo che non si debba esagerare con l'uso dell'inglese quando c'è l'italiano, che è la quarta lingua bellissima nel mondo. E che è uno dei biglietti del Made in Italy. Nel caso del freelance, però, bisogna dire una cosa: che il sinonimo che sarebbe liberi professionisti. La traduzione sarebbe libero professionista, sì. È un po' diverso perché uno pensa al notaio, pensa all'avvocato, pensa alle professioni. Invece i freelance si pensa a quel mondo. A tutti noi che lavoriamo con la partita IVA perché non possiamo fare designer, in altro modo. Sviluppatori nel mondo della moda, della televisione, cioè. Quindi è un mondo che è anche come contenuto un po' diverso. E in italiano una cosa del genere non si sa come dirla. O almeno chiediamo ai nostri ascoltatori, nel senso che effettivamente per noi la traduzione sarebbe libero professionista, però libero professionista interrogavamo a un'accezione un po' diversa, e quindi ci dicevamo forse ha un senso usare la parola inglese in questo caso, che è freelance, perché forse spiega meglio il fatto, diciamo, dei disgraziati con la partita IVA, e sto parlando di me quindi non sto insultando nessuno, piuttosto che quelli che pensi che siano appunto il notaio e l'avvocato. Roberto, comunque è lì ancora Roberto? Sì, sono qua, vi ringrazio. A volte magari mi arrabbio con voi, ma stamattina mi siete più simpatici. Continua a chiamarci sempre, anche quando ti siamo antipatici. La la la la la la la la la la la la. No, non andiamo a scuola. No, non andiamo a scuola. Andiamo a correre sui prati con la nostra fantasia. Per un solo giorno, per un solo giorno, potremo ritornare a rivivere la gioia dell'estate. Eppure i professori potranno dir qualcosa, perché si ricorderanno della loro gioventù, e un piccolo sorriso di nascosto manderanno, e così saremo perdonati. Tu vieni, non pensarci più. La la la la la la. Questa scelta musicale di Pino Donaggio, del tutto vintage, da parte del nostro Andrea Piana, l'autore di Si può fare. Parliamo di scuola e di una proposta che in questo caso arriva da una importante città come Livorno. E la proposta che farà discutere sicuramente, magari anche arrabbiare qualcuno, è andare a scuola dal lunedì al venerdì, sì, ma non di sabato, appunto, come un po' dice anche la canzone. Ma perché, per una motivazione molto precisa. Per una triste motivazione che è sempre quella: risparmiare. Noi salutiamo il presidente di quel che resta della provincia di Livorno, Alessandro Franchi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. È giusto dire di quel che resta della provincia? Stavo chiedendo perché di quel senza che offese, resta. Senza offese, Beh, sì, di quel che resta, perché c'è una riforma in atto, esatto. E le province sono. Stanno cambiando pelle, stanno diventando sempre più enti di area vasta, ma con funzioni molto più limitate rispetto a quelle che conosciamo. Tra l'altro, poi magari facciamo un punto anche su quello, ci racconta anche come si sta evolvendo, almeno a Livorno, e come si stanno realizzando le varie tappe di questa riforma. Parlando però di scuola, lei ha scritto una lettera ai presidi delle scuole della provincia per invitare a fare questa riflessione, una cosa che già avviene, credo, in qualche da qualche parte, ne ho sentito parlare, in qualche piccola città, forse a Parma già lo fanno, spending review in primo piano, e quindi anche per la scuola. Ci racconta? Sì, noi siamo di fronte purtroppo come province italiane, quindi anche come provincia di Livorno, a una situazione molto difficile dal punto di vista della tenuta dei bilanci. Noi per esempio per il 2015 dovremo risparmiare, rispetto a quello che sono le indicazioni del governo, 8 milioni su 32, e quindi capite bene che con un 25-30% di risorse in meno è molto difficile far quadrare i bilanci e continuare comunque a gestire anche i servizi e erogare i servizi ai cittadini. E quindi stiamo valutando tutta una serie di proposte, ovviamente questa non è l'unica, per risparmiare, per come dire, chiudere anche un bilancio in equilibrio, cercando di non compromettere ovviamente la qualità dei servizi che offriamo ai nostri cittadini e anche quelli che sono, diciamo, i servizi per il territorio, comprese le scuole, che comunque rimangono una competenza della provincia. L'istruzione secondaria rimane una competenza della provincia. Ma stiamo sentendo degli uccellini o sono io che sto per avere un ictus? Non lo so, io sono fuori, quindi può darsi. Sì, ah, sì. Sentiamo un bellissimo cinguettio. Pensavo, scusa, che Livorno fosse una città industriale. Lo è, invece... ma è anche una città bellissima, che offre anche altre opportunità rispetto a quelle. Un po' la conosco, perché io sono di Pisa, però non... Ecco. Non volevo interrompere. Non abbiamo qua una questione tra Pisa e Livorno, perché sennò... No, no, ci porterebbe lontano. Non arriviamo alla fine della puntata, vivi. Ma sai, io non sono livornese della città, quindi... Perché... Io sono milanese, faccio da arbitro fra voi due toscani. Ecco. Scusami, non volevo interromperti. Sindaco di Rosignano. Sindaco di Rosignano. Sì, sono sindaco di Rosignano. Perché oggi già il presidente della provincia di Livorno, per esempio, è... non è più un presidente eletto, ma è un presidente, ci racconti, ci spieghi? Oggi i presidenti di provincia sono amministratori dei vari comuni, eletti direttamente dai sindaci e dai consiglieri comunali dei vari comuni della provincia. Uh-huh. E quindi, per ritornare al discorso della scuola, noi abbiamo semplicemente mandato una lettera ai dirigenti scolastici degli istituti secondari, chiedendo loro se è possibile in qualche modo poter rimodulare l'orario scolastico su 5 giorni anziché su 6. Ovviamente questo, come dire, comporta anche una valutazione sull'offerta didattica, sulla qualità anche educativa dei ragazzi e delle scuole, comporta una rimodulazione del servizio di trasporto. È una valutazione. Noi, questo, scusi Franchi, sì, poi ci dice anche che risposte ha avuto. Questa però è una proposta che riguarda le scuole di ogni ordine e grado? No, questa è una proposta che riguarda soltanto gli istituti secondari. Secondari. Quindi parliamo, che sono gli unici di competenza delle province. Diciamo, non si crea, almeno in questo caso, il problema dei figli piccoli che il sabato si deve andare a lavorare, no, non sa dove metterli, e questo è un problema. No, anche perché le scuole elementari e le scuole medie sono comunque competenza dei comuni. Certo. Quindi andiamo a impattare quantomeno l'argomento offerta formativa, durata di questa offerta formativa complessiva, eccetera. E questa è competenza dei dirigenti scolastici, ecco perché abbiamo chiesto a loro una valutazione. E loro cosa le hanno risposto? Qualcuno le ha risposto? Almeno uno che l'ha risposto c'è stato? Perché? Sì, le risposte stanno arrivando, devo dire che non c'è contrarietà. Ho scoperto anche che alcuni corsi all'interno degli istituti secondari già sono modulati, per esempio su 5 giorni, perché a seconda di quelle che sono le scuole e soprattutto gli istituti tecnici che fanno laboratori al pomeriggio, alcuni di loro hanno già una modulazione oraria su 5 giorni. Quindi la proposta ovviamente è una proposta che non sconvolge. Capisco che sicuramente potrebbe in qualche modo mettere in discussione quello che è un assetto attuale, ma non sarebbe una proposta, diciamo, che sconvolge assolutamente nulla, ecco. Ci teniamo però a un punto, che non ci devono essere ovviamente ripercussioni su una qualità didattica, che è l'elemento sicuramente fondamentale, ecco. Se c'è possibilità di risparmiare bene, altrimenti comunque, non sarà un'imposizione da parte della provincia, considerando anche l'autonomia scolastica che è garantita per legge alle scuole. Ecco. Certo, volevo chiederti una cosa, siccome ne abbiamo parlato spesso anche qua in trasmissione, Si può fare, il fatto che le scuole si vuole tentare di far sì che non siano dei luoghi dove si va solamente per studiare, ma anche dei luoghi di aggregazione, per cui dove creare altre attività per non lasciare i ragazzi, diciamo, in mezzo alla strada. E allora mi chiedevo, il fatto di togliere il sabato, che in fondo per organizzare attività altre diverse da quelle che è solamente la didattica, è un buon giorno, perché il giorno dopo non si va a scuola, se questa cosa qua non rischia di limitare questo tipo di organizzazione? Beh, questo è indubbiamente. Io però vorrei che in qualche modo su queste cose ci fosse una valutazione anche dal punto di vista nazionale. Qui è il governo che deve dare una risposta e soprattutto strumenti anche finanziari agli enti locali, che sono gli unici in questo momento che si fanno carico di garantire una, insieme alle scuole ovviamente, una qualità educativa e un sistema della didattica dalle scuole elementari alle scuole superiori. Investimenti nell'edilizia scolastica non ce ne sono. Gli insegnanti sono sicuramente tra le categorie di dipendenti pubblici meno pagati, meno valorizzati. E qui ci vorrebbe, come dire, una vera riforma della scuola che valorizza quelle che sono le attività, quelle che sono anche le scuole. Sì. Senta, però sì, sì. Adesso poi parlare di scuola in generale sarebbe giusto, ma non è questo il momento, credo. Però ci dica almeno, ci vorrebbe sicuramente una riforma ampia, complessiva, questa vostra proposta, diciamo, di andare a risparmiare sulle spese di riscaldamento del sabato e quindi, diciamo, chiudere la scuola di sabato è un escamotage, è una proposta minima che ha a che fare più col tema economico che col tema scuola. Assolutamente sì. Però avete fatto almeno un conto di quanto si potrebbe risparmiare, per quantificare ed eventualmente valutare come potrebbero essere spesi poi diversamente questi soldi, per esempio, in altri capitoli della scuola, qualora lo si volesse fare? No, è chiaro che questa è una proposta in linea con risparmi, non sono, diciamo, risorse. Ma quanto potrebbe ammontare? Ma intorno ai 200.000 euro. Intorno ai 200.000 euro. Che per un bilancio come quello della provincia, o comunque per una città come Livorno, è una cifra, diciamo. Sicuramente è una cifra piccola, ma infatti sta dentro, diciamo, una serie di proposte che stiamo valutando. Non è detto che questa, come dicevo prima, sia una soluzione che poi verrà. E lei si è ispirato a qualche città dove, per esempio Parma, dove già questo avviene, o anche altrove? Sì, Parma è un esempio. Cioè, ha avuto contatti con gli assessori, con le scuole, che impressione ne ha tratto? Ci sono stati dei contatti attraverso gli uffici della provincia. È chiaro che quando si cambia c'è sempre uno sconvolgimento anche delle abitudini, però da questo punto di vista le risposte, i ritorni che abbiamo non sono sicuramente negativi. Detto questo, però, io mi rimetto davvero a quelle che sono valutazioni del mondo della scuola. Ho ricevuto anche note da parte del sindacato del sindacato stesso, del sindacato della scuola. Sì. Sto ricevendo. Che sono a favore o contrari i sindacati? No, i sindacati hanno espresso, diciamo, molte preoccupazioni rispetto a questa soluzione. Di contro abbiamo, diciamo, i dirigenti scolastici che invece non sono contrari e in qualche modo troverebbero anche soluzioni. Detto questo, è chiaro, ci vuole una discussione, non può essere un'imposizione dall'alto, anche perché mi rendo perfettamente conto che è una proposta ispirata soltanto dal punto di vista del risparmio. Va bene, staremo a vedere, certo, se farà strada questa proposta. Però prima di lasciarci vorrei chiederle anche questo, Franchi: come sta andando, diciamo, lo svuotamento anche del personale, no, delle province? Noi abbiamo parlato, per esempio, in merito a una proposta che si sta facendo strada, a trasferire gli esuberi delle province nei tribunali italiani, quindi da un'amministrazione all'altra, dove c'è bisogno in questo caso. Il caso di Livorno come sta andando? Ma guardi, il caso di Livorno sta dentro quelle sono le problematiche anche delle altre province toscane e nazionali. Noi siamo di fronte a un personale che in questo momento esprime grande preoccupazione per il proprio futuro. È anche vero che come regione toscana forse siamo messi un po' meglio delle altre, anche perché proprio la prossima settimana dovrebbe andare un'approvazione consiglio regionale una legge che consente di trasferire sulla regione il personale e le competenze. Dove li mandate? In regione, quindi non nei tribunali. Per esempio a Livorno nessun dipendente della provincia andrà nei tribunali. No, ci sono alcuni dipendenti che hanno chiesto già oggi mobilità verso altri enti, compresi i tribunali. Però il grosso delle funzioni verrà trasferito sulla regione, una parte di competenze verrà trasferita ai comuni e ovviamente le competenze si portano dietro anche il personale. Quindi questa è una proposta che la Regione Toscana ha fatto, che anche i presidenti di provincia hanno condiviso, perché pur, diciamo, in una dimensione ridotta le province continueranno a fare alcune cose, ma il personale viene garantito. Va bene, grazie, staremo a vedere. Anche su questo occorrerà tornare, naturalmente, sulle province. Grazie mille. Questa grazie. È la... Buon sabato. Il caso di Livorno, buon sabato. E soprattutto la proposta di tenere chiuse le scuole il sabato per risparmiare sui riscaldamenti. Non molto, 200.000 euro, devo dire, però insomma, si inizia un po' qui, un po' là. Esatto, un po' qui, un po' là. 800 24 00 24, cosa ne pensate appunto di questa proposta, e se magari invece nei vostri comprensori, nelle vostre province già si sta sperimentando questa cosa, se ne avete sentito parlare, se volete chiamarci. Volevo segnalarti che mi hanno scritto un tweet in cui ci segnalano un film ed è Non è un paese per idonei, questa un è la film battaglia, del esatto. governo Renzi. Voglio dire che questo è quasi un upgrade del nostro, ecco, upgrade, giusto per dire un'altra parola straniera, un upgrade del nostro gioco che forse faremo un'altra volta, ovvero di inventare dei titoli. Però... e lui ci twitta addirittura tanto di Locandina con Marianna Madia, Matteo Renzi e Graziano Del Rio, Non è un paese per idonei. E questa è bella, la Locandina è molto bella, però bisogna spiegare anche di cosa si tratta. Questa è la battaglia delle idonei nel concorso della pubblica amministrazione che sono fermi perché c'è il blocco del turnover e loro non possono entrare, ne abbiamo sentito parlare. Infatti c'è anche l'hashtag no emendamento 2981. Ci hanno chiamato diverse volte. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. 800 24 00 24. C'è movimento su Twitter. Sì, e dobbiamo anche ricordare il numero degli sms che è 349-238-6666. Ci è arrivato un bel sms che dice: ristrutturare energeticamente le scuole. Spendi, ma risparmi tanto e rientri nella spesa in pochi anni. Altro che chiudere al sabato, visto che abbiamo appena raccontato della provincia di Livorno a che propone sì, di chiudere questo. Il sabato per risparmiare sul riscaldamento. A proposito di sms e della nostra richiesta dei film, se Italia fosse un film, che film sarebbe? Domani sono gli Oscar. Il film potrebbe essere Il Sorpasso, con Gasman nella parte di Renzi. Direi che Renzi sarebbe felicissimo. Anche questo ci sta. Noi avevamo pensato a Bugiardo ieri, a proposito di Renzi. Qualcuno potrebbe piacere, oppure Pinocchio addirittura. Giusto. Un altro sms: se tolgono le scuole il sabato, noi autisti di autobus, che già facciamo fatica a fare 40 ore settimanali, il sabato cosa facciamo? Beh, adesso è messa così, però chi è che ci scrive questo? Su Twitter? È un sms senza mittente. Non pensavo di dare in diretta al numero, ecco. Ok, allora adesso abbiamo ancora un ascoltatore, ce l'abbiamo? Sì, allora lo chiamiamo e si tratta di Rosetta da Pescara. Buongiorno Rosetta. Buongiorno. Prego. Sto seguendo la vostra trasmissione, la seguo sempre. Comunque volevo dire, io sono un insegnante di scuola media superiore, di secondaria. Sì. Insegno in un liceo. Sì. Quindi le dico, abbiamo adottato dall'anno scorso la cosiddetta settimana corta, la week. La settimana corta va ma benissimo. Noi la chiamiamo settimana corta. Anzi, giusto? Non ci facciamo del male inutilmente, sì, con l'inglese. Short week sarà. No, perché il preside che c'era l'anno scorso aveva adottato. Come Renzi, amava usare le cose. Usare gli inglesismi. Sì. Quindi, certo. Come sta andando? Settimana corta. Sta andando per me malissimo. Nel senso che noi abbiamo nelle classi. Vivo in un piccolo centro dell'Abruzzo, però abbiamo le classi fornite di lavagne LIM. Di lavagne LIM? Che sì. Sono? Scusi, sono il registro elettronico. Sì. Ah, sì, perfetto. Sì. E quindi Rosetta, qual è il problema? Qual è il bilancio? Qual è il suo bilancio che lei fa di questa situazione nella scuola? Malissimo, perché malissimo. Entrano e escono quando vogliono. Devi registrare sulle LIM le entrate e le uscite in ritardo. Non abbiamo le lavagne LIM disposte. Per esempio, io insegno educazione fisica, sì. Palestra non ce l'ho, quindi mi devo rifare le scale. Chi mi entra alle 9:20? Però insegna educazione fisica, le scale non saranno un problema, giusto? Ho capito una cosa, Rosetta, ho capito che dobbiamo presto. Ascolti un attimo, Rosetta, parte la battuta certo, di Gabardina. Certo, di Gabardina. Certo. Dobbiamo parlare di scuola presto, si può fare, perché la scuola merita sempre degli approfondimenti importanti. Noi stamattina però abbiamo toccato solo il tema della settimana corta, cioè le province propongono alle scuole per risparmiare. La provincia di Livorno, peraltro. Sì, esatto, ma è successo anche a Parma, credo anche a Genova, altrove, se ne è parlato anche a Milano, però non è successo nulla di fare questo. Quindi insomma, Rosetta poi lamentava una serie di altre questioni. No, ma io volevo capire qua, esatto, come mai tutto questo venisse fuori dal fatto di aver fatto la settimana corta, che lei definisce deleteria. Allora volevo capire questo. Certo, perché stato soltanto un acquisto di alunni, perché ormai le scuole fanno compravendita di alunni, cioè iscrivi nella mia scuola hai questo, se ti iscrivi in quell'altra hai quest'altro, e allora è un modo per attirare alunni. Sì, difatti, questo succede credo da quando c'è l'autonomia, però anche questa è una, come dire, è una questione che meriterebbe un approfondimento. Io materia per esempio non ne so molto, per cui Rosetta, grazie per grazie il suo mille. Diciamo grido di dolore da Pescara per quanto riguarda la scuola dal suo punto di vista. Adesso è il momento di inaugurare uno spazio, qua si può fare un Una nuova rubrica. Hai presente quel momento di incertezza che tu stesso spesso hai sottolineato proprio qua, da questi microfoni, quando sei davanti nel piazzale di casa, davanti al cassonetto dei rifiuti? Ai 25 cassonetti, 25 direi, cassonetti. Perché ce ne fosse uno, oppure uno sul ributta. Terrazzo, oppure dove esatto. Ce l'avete voi. Io ce l'ho in un angolo di casa, l'oasi ecologica la chiamo, con tutte le ceste, dove si butta. Dove lo butto il rifiuto? È una domanda che mi attanaglia da tempo. Dove lo butto? Non credi che invece sì, dal momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì. Ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu, questa volta non ci sono se io non parlo, adesso tocca a te. Eccolo qua, adesso a chi tocca. Oggi cerchiamo di capire dove si buttano i CD vecchi di Sanremo, per esempio, o i DVD dell'anno scorso. Anche non di Sanremo, è un attacco frontale a Sanremo? No. Ne parliamo, intanto lo salutiamo con Rossano Ercolini, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno Rossano. Buongiorno, bentornato. Il maestro di Capannori, il premio Nobel per l'ambiente in America nel 2013, cioè in realtà per l'Europa, ma il premio Nobel per l'ambiente viene dato in America. E lui gira da 30 anni l'Italia, abbiamo detto più volte, cercando di spiegare e sostenere come e perché i rifiuti non si bruciano, non si inceneriscono, ma si fanno fruttare. Si fanno fruttare, si riutilizzano, si riciclano. Sembravano un gruppo di anarchici, rivoluzionari, pazzi, visionari 30 anni fa. Oggi è stato insignito da Obama di questo riconoscimento, il segno che eravate sulla strada giusta. Rossano, intanto piacere che tu sia qua con noi di nuovo. Sì, mi sembra una rubrica intelligente e anche simpatica, perché poi in effetti ci troviamo sì. Durante la giornata spesso con questi dilemmi, dove metto, dove lo devo mettere. Certo, no, perché noi veramente, è stato un po' di tempo fa che Carlo diceva il cartone della pizza, e allora siamo partiti lì dicendo è vero, ma dove diavolo si butta? Però sul cartone della pizza... No, il cartone della pizza perché è quello sporco, perché il cartone della pizza è cartone, facile. Però poi si entra in delle dinamiche molto più difficili, tipo la mozzarella. Torneremo anche su questo, adesso però a noi ci interessava partire, diciamo, da questa attualità, no? Per esempio i CD usati. Che adesso non si usano più perché adesso si va con l'economia digitale. Beh, tutto no, su i CD internet. Ancora si usano. Le VHS, mi sembra che vogliamo parlare anche di anche VHS. Di Rossano, tu e io ne ho tantissime, quindi sono curiosissimo. Li usi ancora i CD, Rossano, tu? Sì. Però magari ogni tanto capita di voler fare pulizia, uno buttarli via. Che, dove si buttano i CD? Ma intanto sono un rifiuto elettrico-elettronico, un cosiddetto RAE. Il famoso RAE, certo. Il famoso RAE devono essere conferiti nell'isola ecologica. Spesso ci troviamo nel dilemma di metterli nell'indifferenziato, sicuramente non nella plastica, però dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista operativo alla più vicina isola ecologica. Ecco, quindi la risposta intanto secca sul CD è questo, non è plastica, non è indifferenziato, ma bisogna fare lo sforzino, andare alla sosta ecologica dove hanno la possibilità di raccogliere questo RAE. Ci fermiamo per più di uno sforzino, ci fermiamo. Per il traffico, poi spieghiamo anche dove, come e perché ci sono queste oasi ecologiche e dove non ci sono. Traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora, con Rossano Ercolini stavo dicendo, insomma, i CD vecchi di Sanremo dell'anno scorso che non mi piacciono più, o quelli ancora più vecchi di cui mi voglio disfare perché mi va così, devo andare all'Isola Ecologica, perché non è rifiuto indifferenziato, è RAE. C'è in tutte le città, Rossano, l'Isola Ecologica? Ci deve essere? Le isole ecologiche in genere sono in tutti i comuni, devono essere, diciamo, permettere un conferimento di prossimità, poi naturalmente dipende dalla sensibilità delle amministrazioni dotare di frequenti isole che comunque sono adesso mediamente facilmente raggiungibili. Ma dove ti trovi in questo momento? Sei in una discarica? In un'isola ecologica? Sentiamo dei cani che abbaiano. Di cartoni. No, mi trovo alla stazione di Viareggio perché sto andando a Imperia per una conferenza sempre su questi problemi. Certo, perché Rossano Ercolini, autore tra l'altro di un libro che sta presentando in tutta Italia, io l'ho letto, il titolo credo di ricordare Non bruciamo il futuro, questo? Sì, grazie. Dove si ricorda anche tutto il percorso con cui si è arrivate oggi a celebrare una strategia, quella dei rifiuti zero, che davvero qualche anno fa sembrava una cosa da pazzi. Però... Il VHS invece, scusami, dove... Lo stesso principio, perché sono rifiuti elettrici e elettronici. Tra l'altro devo dire che sono costituiti per il 90% da un tipo di plastica che è il policarbonato e per il 10% da una pellicola sottilissima di alluminio. Si pensi che un fisico cinese, anzi di Taiwan, ha prodotto attraverso i CT un sistema molto funzionale per la depurazione delle acque. Questo sarebbe, cioè, utilizzando che cosa, scusa, i CD? Utilizzando i CD attraverso i riflessi della luce producono dei raggi ultravioletti che sono molto indicati per la depurazione delle acque domestiche, acque degli oddio Rossano, ti stiamo perdendo, sentiamo dei rumori di sottofondo terribili. Posso chiedere una cosa sulla questione dei CD? Forse dico una cosa un po' antipatica. Non è un po' difficile pretendere da un cittadino che se deve buttare via un singolo CD debba sei il solito salire? Sto cercando di capire se per un questo tipo di prodotti non si può cercare di fare, non so, un secchio anche dentro nei condomini e allora lo si può pretendere, perché mi sembra molto difficile. Sei pieno di CD vecchi. Io sono strapieno, no, ma anche di VHS, ho delle casse intere, però quello lo posso capire. Cioè, un'intera cassa di VHS prendo e andrò alla discarica, andrò al punto ecologico, però per un singolo CD mi sembra difficile pretenderlo, però forse sbaglio io. No, questo chiama in causa la responsabilità dei produttori. In genere attualmente i produttori mettono nelle nostre mani il problema, a loro vanno i profitti e a noi vanno le grane. Esatto, perché per esempio se si potesse buttarlo via in qualunque negozio di elettronica sarebbe molto più semplice. Qualsiasi venditore di dischi, di libri, eccetera. Quindi sicuramente noi bisogna stressare a favore di una maggiore responsabilizzazione dei produttori. Di tutti, anche dei produttori e dei venditori. Grazie Rossano Ercolini, per ora ci sentiamo sabato prossimo. Buon viaggio, visto che sei alla stazione. Grazie mille. Direzione Imperia. Bello, questo è vero, e questo però è un altro capitolo che si aprirà senz'altro, quello di coinvolgere i venditori, i distributori. Di aumentare i punti. Per esempio per la lampadina, a me è capitato, la lampadina, vai, dove butto la lampadina? Vai al negozio e ti dicono sì, però noi non siamo autorizzati a ritirare. E allora con una lampadina dovresti andare all'isola ecologica. E cosa succede? Che uno la fa cadere per terra a un certo punto. Succede che noi abbiamo Rossano Ercolini che ci spiega tutto. Esatto. Fantastico. Abbiamo un ascoltatore ancora, sì. Poi dobbiamo anche dire chi vince oggi i biglietti per la mostra Wim Wenders a Varese. Evaristo da Udine. Buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno, buon sabato. Anche altrettanto. Grazie. Io volevo appunto abbinare all'Italia il titolo del film, no? Ci dica. Ecco, io speriamo che me la cavo. Io speriamo che me la cavo. Beh, anche questo è molto bello. Direi che tra l'altro è perfetto come chiusa anche di tutta la trasmissione, che parla di scuola, di cui abbiamo parlato oggi. È anche benaugurante, è anche positivo, quasi quasi mi viene voglia di dire... Non so se stai pensando anche tu la stessa cosa. Sto pensando alla stessa cosa. Allora glielo diciamo in diretta. Evaristo, hai vinto. Bravo. Hai vinto tu. Perché hai trovato un bel film che è anche positivo. E poi unisce, secondo me, anche il popolo delle partite IVA. Io speriamo che me la cavo. Perfetto, se devo dire. Partiti di lì, arriviamo di lì. Grazie, Evaristo. Porta a casa i biglietti per la mostra di Wim Wenders a Varese, al Fai, Villa Panza. È bello darlo in diretta. È molto così. Bello. Quando capita. Bene, non abbiamo che da salutare. Siamo in chiusura, ringraziamo tutti. Allora ringraziamo Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma. E poi vabbè, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, redazione, che oggi è anche qua in assistenza in diretta. Peter Bescapè, in regia. No, ci fermiamo qua, no, andiamo avanti. Beh, cosa vuoi andare? Con tutti i vertici di Radio 24? Giorgio De Luca per i suggerimenti indiretti che ancora arrivano per questo programma, nonostante la sua nuova vita a tutti convocati. Esatto. Lo ringraziamo sempre, lo salutiamo. Basta. Ciao, ci vediamo domani. Buon sabato da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizi, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.